pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Oggi una puntata un po' particolare, vero Luque? Sì, infatti oggi parleremo di una conferenza sul jazz che si è tenuta all'Hot Club di Barcellona il 30 gennaio del 1953. Una conferenza che aveva per titolo Chicago, Blanco e Negro e riguardava appunto il jazz che si suonava a Chicago, che divenne capitale del jazz dal 1917 per tutti gli anni 20 e 30. E sì, l'ispirazione per questa puntata ci viene da una locandina originale trovata da Chiara di Entropia Massima del 1953, quindi un pezzo, come dire, da museo. Eh sì, diciamo che infatti l'ho trovata al museo, al Reina Sofia di Madrid, e mi ha molto incuriosito perché era un qualcosa successo nel 53 a Barcellona che già andava a riguardare la storia dell'inizio del jazz, degli anni 20, fine anni 20, cosa che già ad Attica Blues è stata affrontata varie volte e cosa che a me ha sempre incuriosito molto, e quindi mi piaceva l'idea di rivivere un po' quel momento, cioè una selezione fatta negli anni 50 di un qualcosa di 20 anni prima e ritrovarla adesso e provare a rimontarla e riascoltarla insieme. Eh sì, perché è proprio presente l'intera, perché loro poi proponevano una sorta di guida all'ascolto, quindi c'era il commentatore in questo caso che era Alfredo Papo, e poi intervallata invece proprio dai pezzi, quindi facevano ascoltare tutti i vari brani che più rappresentavano questo periodo storico, ed è presente proprio l'intera scaletta della serata, che è composta da 15 pezzi che noi riproporremo fedelmente. E allora cominciamo subito questo viaggio nel Dixieland e un po' anche nel blues. Cominciamo con Louis Armstrong, questo è Get Bucket Blues. Oh, play that thing, Mr. Cynthia Lord. You know you can do it. Everybody from your knees can really do that thing. Hey, hey. Oh, that's good. Immaginandoci questa serata del 1953 come una specie di momento di ascolto con un presentatore anche, mi viene da pensare che ci fosse anche una breve descrizione degli artisti o dei brani. Infatti si comincia con quattro pezzi di Louis Armstrong, di cui abbiamo già ascoltato il primo. Sì, Armstrong che dal 1925 si affermò come il trombettista, simbolo del movimento jazz di Chicago, con le storiche registrazioni dei suoi gruppi, gli Hot Five e gli Hot Seven. E adesso ci ascoltiamo i Bee-Gees. Yes, got the heebie-jeebies. Oh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. Talking about the heebie-jeebies, almost insane, just over that Mellow's train. If you don't know it, you ought to learn it. Don't feel blue, someone will teach you. Come on now, let's do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Oh boy, jeebies dance. Oh, skeet, scat, scoot, doot, a doot, doot, dance. Oh, bananas, doot, bats, boots, day. Baby, baby, don't. Oh, yes, don't you know it? Somewhere we teach you. Yes, boy, come on down and do that dance. Call the heebie-jeebies, take it from me, chops and bass. The heebie-jeebies. Oh, what you doing with the heebies? Man, I got to have the heebies. Yes, got the heebie-jeebies. Oh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. Degli afroamericani dal sud al nord degli Stati Uniti, che ebbe luogo tra il 1910 e il 1920, portò con sé anche molti musicisti di New Orleans attratti dai maggiori guadagni che venivano offerti ai musicisti al nord e, secondo molte testimonianze, anche dalla decadenza dell'intrattenimento a New Orleans, che viene fatta coincidere simbolicamente con la chiusura nel 1917 di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans dove pare sia nato il jazz. Heebie-jeebies dance, oh boy, jeebies dance. Oh, skeet, scat, scoot, doot, a doot, doot, dance. Oh, bananas, doot, flat, boots, day. Baby, doot, baby, doot, oh yes, don't you know it? Somewhere we teach you, yes. Boy, come. jazz. All the heebie-jeebies taking drumming and chops and bass. The heebie-jeebies. Oh, what you doing with the heebies? Man, I got to have the heebies. Allora, quello che ci siamo appena ascoltati era I'm Not Rough, mentre quello che ci andiamo a ascoltare è l'ultimo pezzo di Louis Armstrong di questa selezione, St. James Infirmary. St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on... Il jazz veniva spesso portato al nord sui battelli che risalivano il Mississippi, che assumevano orchestre per l'intrattenimento di bordo. La meta di molti musicisti fu proprio Chicago, città che attrasse anche King Oliver e attorno al quale si creò una scuola da cui emersero molti protagonisti, soprattutto bianchi, tra cui Bix Beiderbecke, Frank Tumbauer, che fu il primo sassofonista americano. Il sassofono infatti era stato brevettato nel 1946 a Parigi ed esportato al seguito delle bande militari, e Pee Wee Russell. La figura principale del periodo però è ovviamente Louis Armstrong, che fu chiamato a Chicago dal re di New Orleans proprio King Oliver. But she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing back. Thank you. e cambiamo decisamente mood, passiamo al piano solo di Earth Hines con un brano registrato a Chicago il 9 dicembre del 1928, questo è Caution Blues. Adesso passiamo al sesto brano in scaletta di questa serata d'ascolto che si è tenuta a Barcellona nel 1953. Protagonista è ancora un pianista, lui è Frank Melrose e questa è la sua Pass the Jug. dal punto di vista musicale il suono contrappuntistico e d'insieme delle formazioni di New Orleans cede adesso il passo ad uno stile in cui domina invece la performance del solista. Sì, domina la performance del solista, ma qui è un'intera orchestra, l'orchestra di Erskine Tate. Questa è la loro Static Strut, registrata sempre a Chicago il 28 maggio del 1926. Questa serata del 1953 si svolgeva nell'Hot Club di Barcellona, ma in realtà gli Hot Club si erano sviluppati in tutta Europa, famosi quelli in Francia già dagli anni 30. Sì, in Francia esatto, a partire dagli anni 30 si erano sviluppati questi Hot Club e poi iniziarono diciamo anche negli stessi anni ad apparire in varie città spagnole e con loro anche collezionisti di dischi e negozi specializzati. E un evento di grande importanza fu l'inaugurazione dell'Hot Club di Barcellona da parte di alcuni appassionati nel 1934, nato con l'intento di diffondere il vero jazz, e così furono organizzati disco forum, concerti e conferenze. E poi l'Hot Club ha sostenuto anche la pubblicazione di un jazz magazine e un programma radiofonico, e già l'anno dopo, nel 1935, organizzò un festival internazionale del jazz, e il successo fu così travolgente che spinse i suoi sponsor a ripetere l'operazione, e nella terza edizione fu già assunto il prestigioso sassofonista americano Benny Carter. Noi invece ci ascoltiamo Albert Wynn con la sua Down by the Levee. Thank you. my good friend there. Going down by that levee, I may find my good friend there. She wears a diamond ring, I can call her anywhere. All the rivers in Maryland and the boats all standing still. All the rivers in Maryland and the boats all standing still. She wears her silk dresses, lives somewhere around the hill. Rimaniamo alla fine degli anni 20, ma passiamo a un blues. Lui è Preston Jackson, questa è la sua Harmony Blues. Thank you. proseguiamo con altri due blues di un grande personaggio di quegli anni. Sì, parliamo di Bix Beiderbecke, nato a Davenport il 10 marzo del 1903 e morto poi giovanissimo a New York il 6 agosto del 1931 a soli 28 anni. È stato un trombettista, un compositore, un cornettista tra i migliori esponenti degli anni 20 del jazz bianco. Noi ci ascoltiamo in sequenza la sua Singing the Blues e Jazz Me Blues. Thank you. ascoltiamo un altro blues uscito per la Paramount nel 1928. Lui è Charles Pierce con la sua orchestra. Questo è Bullfrog Blues. Adesso passiamo al tredicesimo brano in scaletta, Sugar, del cantante e musicista jazz Red McKenzie. Musicista in realtà alquanto anomalo, in quanto lui suonava un pettine come strumento e si serviva di un pettine e, soffiando su della carta, produceva un suono simile a quello del kazoo. Questo è Sugar in compagnia dell'orchestra guidata da Eddie Condon. Thank you. passiamo adesso a un brano sempre del 1928, uscito il 4 aprile, il 4-4. Loro sono un ensemble, i Chicago Rhythm and Kings. E vi diciamo in questo caso anche la formazione completa. Allora, la cornetta Maggie Spiner, al clarinetto Frank Teschenmaker, al sassofono tenore Mads Mezrow, al piano c'era Joe Sullivan, Eddie Condon, eccolo qua, al banjo, Jim Lenning al basso tuba e Jim Krupa alla batteria. Questa è la loro I Found a New Baby. Abbiamo sentito negli anni 20-30 andava il Dixieland, andava il blues, ma questa serata si conclude con un brano storico, un brano che ha dato un nome, un genere, il Boogie Woogie. Sì, il protagonista è Pinetop Smith, che registrò questo famoso brano il 29 dicembre del 1928 e appunto, oltre a diventare un successo, dette il nome anche a questo genere musicale. E poi nel 1929, quando Pinetop Smith avrebbe dovuto partecipare a una nuova sessione di registrazione per la Vocalion, il giorno prima proprio della registrazione morì per le ferite d'arma da fuoco riportate in seguito ad una rissa in una sala da ballo di Chicago. E tra l'altro non esistono fotografie di Smith. E allora con questo brano si chiude, diciamo, questa serata. Pinetop Boogie Woogie. Thank you. to dance just like I tell you. And when I say hold yourself, everybody get ready to stop. And when I say stop, don't move a peg. And when I say get it, everybody do a boogie woogie. Hold yourself now. Boogie woogie. Now that's what I'm talking about. Now when I say hold yourself this time, y'all get ready to stop. And when I say stop, don't move. When I say get it, everybody mess around. Hold yourself. Mess around. Now that's what I'm talking about. Here with Mr. Pine Top is. Now, faced audience, now when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. And don't move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Hold yourself now. Shake that thing. That's what I'm talking about. Concludiamo questa puntata di Attica Blues con un brano del 1925, un brano però che non è nella scaletta della serata che abbiamo sentito prima, l'ultimo pezzo, un Boogie Woogie, ma è un brano rifatto ai giorni nostri da Winston Marsalis. Sì, non poteva essere perché è stato registrato live questo al Festival di Marsia il primo agosto del 2010. Winton Marsalis qui il suo quintetto, che possiamo anche definire che è uno dei gruppi più autorevoli che portano avanti ancora il sound del Dixieland di quegli anni. E qui in questa formazione che vede Winton Marsalis alla tromba, Dan Nimer al piano, Walter Blending al sassofono, Carlos Enriquez al contrabbasso e Ellie Jackson alla batteria, ci sono anche due featuring, ossia quello di Mark O'Connor al violino e Frank Vignola alla chitarra. Il brano appunto è Sweet Georgia Brown, composto nel 1925 da Ben Bernie e Maceo Pinkard. In quest'anno complicato sono state poche le iniziative, poche le serate, ma domenica al Forte c'è stata una giornata importante, in quanto si è presentata la nuova Scarceranda, che come ogni anno la radio ripropone. Scarceranda che vede un quadernino abbinato, Scarceranda che è possibile inviare nelle carceri se avete un familiare recluso, un amico, un compagno che sta là, potete comunicarlo alla radio a ondarossa@ondarossa.info. E comunicarci il nominativo e noi la spediremo gratuitamente nell'istituto penitenziario che ci avete segnalato, al nome che ci avete segnalato. Vi ricordiamo che se la volete spedire sulla Scarceranda non ci può essere scritto nulla, in quanto in caso contrario sarebbe sequestrata quando arriva, quindi arriva bianca, totalmente bianca, e poi sarà vostra premura comunicare alla persona che ci avete indicato di dirgli che siete stati voi a mandargli la Scarceranda. Naturalmente è bellissima come ogni anno, quindi ve la consigliamo, la trovate in giro, la trovate alle iniziative, sperando che ce ne saranno altre, che non finiamo in lockdown di nuovo, e se no la trovate presso la radio, naturalmente a Via dei Volsci potete venire e la trovate qui da noi. State sintonizzando solamente adesso, più in generale, se volete riascoltare questa come una delle tantissime altre puntate di Attica Blues, le trovate tutte sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, basta andare su palinsesto, cliccare il giovedì pomeriggio, tra le varie trasmissioni c'è Attica Blues, quindi cliccate su Attica Blues e si apre la nostra pagina dove ci sono i vari podcast delle trasmissioni corredate da una breve descrizione, la scaletta e una foto che rappresenta la trasmissione. E vi invitiamo a seguirci anche attraverso le nostre pagine social. Attica Blues la troverete su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove la nostra playlist è arrivata a quasi 100 ore di musica nera che più rappresentano questa trasmissione. E invece per la diretta l'appuntamento è sempre fisso e puntuale, no? Sì, sempre giovedì prossimo dalle 4 alle 5. E tra l'altro dobbiamo ringraziare per questa puntata Chiara di Entropia Massima, che ci ha fornito la foto della locandina originale di questa incredibile serata del 1953, da cui abbiamo tratto spunto per questa puntata. Sì, la troverete pubblicata già adesso. E allora l'appuntamento è a giovedì prossimo alle 16, sempre su queste frequenze, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.